24 mattino. Le 8 e 18 minuti, eccoci qua con 24 mattino, la mail è 24mattino@radio24.it ed è il momento di parlare dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di un tema che è su tutti i giornali. Sì, c'era già notizia, ieri per la verità, vero, perché il Corriere della Sera l'aveva già anticipato. Ma sì, oggi è più sviluppato. Peraltro mi ha molto colpito perché non c'è giornale nel quale non ci sia una grande pubblicità della a pagamento o della Barilla o in alcuni casi anche insomma dell'Unione dei Pastai. Beh, perché si parla di questo, si parla della pasta e si parla di una multa salata che è stata comminata, Deborah. D'altronde stiamo parlando di un business molto importante, soprattutto per il nostro paese, una tradizione alimentare mediterranea. Lo sai che tu ti mangi 28 kg di pasta l'anno? No, mannaggia, no, io meno perché, vabbè. Io invece mi sa che sono in media. Allora, adesso a parte gli scherzi, non solo compagnie telefoniche e banche nel mirino dell'antitrust, lo avete letto sicuramente tutti, su tutti i giornali questa mattina, è finito anche il caro pasta, una situazione che ha suscitato un grande clamore. Si parla di una multa comminata alle aziende produttrici di pasta e alle associazioni di categoria, anche questo è un aspetto singolare, di una maxi sanzione, dicevamo, da 12 milioni e mezzo di euro. La causa è quella di aver costituito un cartello, in sostanza le aziende operanti nel settore si sono accordate sui prezzi della pasta per aumentarli e per ridurre la concorrenza. Ovviamente le aziende si difendono, hanno già fatto sapere che ricorreranno contro questa sanzione che, pensate, solamente a Barilla costa qualcosa come 5.729.000 euro. Con chi parliamo di questa vicenda questa mattina? Intanto con l'ingegner Renato Bonaglia, presidente di Union Alimentari, una delle due associazioni che riceveranno anche la sanzione dell'antitrust. Ingegner Bonaglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi a Soldi e Dintorni, anche al presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Presidente, benvenuto. Buongiorno, grazie. Tra l'altro osservavamo anche su qualche giornale con Alessandro Milan, magari Alessandro, se vuoi intervenire con me, in realtà stiamo parlando del prezzo della pasta, è sicuramente una situazione sulla quale è corretto porre una certa enfasi, però un chilo di pasta costa qualcosa come un euro e mezzo in questo momento, per cui un aumento provoca qualcosa che nel bilancio delle famiglie sicuramente incide poco. Sì. Quanto hai trovato, ma Maximilian? Sul Riformista, insomma, parlavano del crimine, il titolo è provocatorio, il crimine dei pastai è 15 euro l'anno, perché più 36% secondo le stime, stimando 30 kg di pasta di consumo l'anno, quindi un po' di più, significherebbe per noi, scrive Alberto Mingardi, una tassa occulta dello strepitoso valore di 15 euro l'anno. Questo ovviamente è una provocazione. Certamente, però la perplessità dell'antitrust è attinente ad un altro aspetto, al fatto che comunque le aziende si accordino per fronteggiare l'aumento della materia prima in un certo modo, poi ovviamente farla riverberare sui consumatori. Comunque Rienzi, ha sentito l'aspetto che abbiamo osservato con Alessandro Milan? Che cos'è che fa tanto arrabbiare di questa questione le associazioni dei consumatori? Ma a parte che i milioni di italiani che consumano pasta, se voi moltiplicate il di più ingiusto che a causa di queste intese è stato messo sulla pasta, non potete ragionare con quanto costa in più la pasta, perché c'è un trasferimento dal complesso delle 25 famiglie italiane agli industriali della pasta che è dell'ordine di centinaia di milioni di euro. Quindi ecco, attenzione, perché poi la gente sente, dice: ah, in fondo un euro in più, ah, 15 euro in più, ma non si rende conto, se continuiamo a fare questi ragionamenti, che nel complesso a 20 industrie della pasta passano centinaia di milioni di euro che non dovrebbero passare, tratti dalle sfilati dalle tasche degli italiani, per un consumo tra l'altro irrinunciabile, perché in Italia la pasta non ci rinuncia nessuno. Quindi è tanto più ignobile una cosa del genere, se sarà ovviamente, ma noi ad oggi dobbiamo dire che è così, confermata da TAR e Consiglio di Stato, dove noi saremo a fianco all'antitrust, rispetto a qualsiasi altro cartello che abbiamo visto fino ad oggi nel nostro paese. Faccio un po' di cronistoria. L'istruttoria dell'autorità garante del mercato era stata avviata il 10 ottobre del 2007 contro un piccolo gruppo di aziende pugliesi, poi è stata allargata agli inizi di dicembre sempre del 2007 ai maggiori produttori italiani, stiamo parlando di 28 imprese, con l'aggiunta, abbiamo detto prima, delle due associazioni di categoria, l'UNIPI, l'Unione degli Industriali Pastai Italiani, e Union Alimentari. Ingegner Bonagli, allora, come avete colto questa notizia? Sicuramente non è stata disattesa, perché appunto l'istruttoria era in corso da un bel po' di tempo. Vi aspettavate che finisse così? Ma sinceramente non ci aspettavamo che finisse così. Abbiamo accolto con grande sorpresa la conclusione del provvedimento, perché per quanto riguarda almeno il caso nostro, io non posso entrare nel merito di quanto sia stato calcolato o dato alle aziende di grandi dimensioni o all'altra associazione di categoria. Noi, ricordo, rappresentiamo le piccole e medie imprese che hanno una struttura molto diversa dal punto di vista industriale e che operano in mercati che spesso sono di nicchia. Ci ha sorpreso questa tra l'altro sanzione. Pare che questo meccanismo del cartello sia stato proprio particolarmente vantaggioso per voi, secondo i rilievi dell'antitrust. E questo appunto è quello che noi contestiamo, perché così di fatto non è stato. Peraltro, l'unica colpa che ci è stata imputata dall'antitrust, ed è questa l'unica cosa che infatti la sanzione che ci è stata data di 1.000 euro, cioè, si commenta da sola in questo caso, è di aver fatto un comunicato stampa nell'agosto del 2008, dove il delegato mio al settore della pasta, perché ricordiamo che Union Alimentari non è un'associazione di pastai, si occupa di agroalimentare italiano, made in Italy, vino, lattiero caseario, carne, pesce e quant'altro, una piccola quantità di nostri associati operano nel settore della pasta, e diciamo il mio delegato ha fatto un comunicato seguendo il suo dovere istituzionale, cioè rispondere in un momento di grande gogna mediatica, dove le imprese della pasta sembrava che fossero le responsabili degli aumenti indiscriminati dei prezzi, che sostanzialmente questi aumenti non erano perché gli imprenditori si erano immaginati di guadagnare di più, ma perché c'erano delle cause di respiro internazionale, peraltro riconosciuto dalla stessa antitrust, e quindi si era difeso dicendo semplicemente: guardate che se il grano continuerà a crescere, visto che nelle nostre aziende la semola di grano duro incide molto perché sono prodotti di qualità alta, le nostre delle piccole e medie aziende, probabilmente il prezzo non potrà che crescere. Ecco, però adesso puoi riprendere, sì, abbiamo capito. Presidente, la ringrazio per la sua ricostruzione, naturalmente anche la sua difesa, che è corretta. Andiamo al concreto, a quello che interessa adesso le famiglie italiane. Adesso, a prescindere dalla multa, però, il prezzo del frumento, purtroppo stiamo anche concludendo il tempo a nostra disposizione, sta tornando a scendere in maniera molto vistosa. Si può riprendere anche un circolo virtuoso dei prezzi, secondo lei, in qualche maniera? Assolutamente sì, e infatti questo è già in atto, come peraltro ha dato evidenza anche il Ministero stesso. Chiaramente bisogna capire però che il prezzo non è fatto dagli industriali e basta, perché lei pensi che Ismea ha calcolato che fatto 100 il prezzo di un prodotto agroalimentare, ben il 60% di questo valore viene realizzato al momento della distribuzione, cioè quando noi andiamo a comprarlo e lo troviamo sullo scaffale. Però anche la distribuzione si è difesa e dice che in realtà ha subito tutti gli aumenti, appunto, che arrivavano dai produttori, e che per quello che ha potuto li ha un po' anche contenuti. Non riesco ad andare oltre, voglio solo 30 secondi con Rienzi, mi deve promettere che non andrà oltre neanche lui, perché purtroppo non abbiamo tempo. Voi avete addirittura proposto ai consumatori, andate a chiedere risarcimento ai pastai. Ultimamente l'antitrust ha accertato che si sono messi d'accordo per aumentare tutti insieme allo stesso modo il prezzo. Quindi attenzione, sia i piccoli che i grandi. Noi diciamo, e sul mio blog, che è carlorienzi.it, sono già arrivate centinaia di adesioni: conservate gli scontrini, perché come è stato per le compagnie di assicurazione è un po' difficilmente praticabile, però davanti, questa strada vabbè, per quello che è successo nel 2008 per chiedere il risarcimento dei danni. Se già potessimo andare a fare la spesa in maniera un po' più serena, sarebbe già qualcosa. Comunque adesso aver conservato gli scontrini, tutta la spesa fatta lo scorso anno, un po' più difficile. Grazie ad entrambi di essere stati con noi, Alessandro. Che ci propone alle 12? Oggi ritorniamo sulle pensioni, oggi spiego come si fa il riscatto della laurea e come si fa la totalizzazione dei contributi pensionistici. Le 8 e 32 minuti, ben ritrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina il disegno di legge con le nuove regole per gli scioperi nel settore dei trasporti. Tra le novità previste, la possibilità di proclamare un'astensione al lavoro solo per chi rappresenta il 50% dei lavoratori e lo sciopero virtuale. Funziona così: i dipendenti lavorano, il servizio funziona, ma lavoratori e azienda devolvono il corrispettivo dello sciopero a fini sociali. Critica la CGIL, il governo stia attento, temo svolte autoritarie, ha detto il leader Epifani. Più tasse per i ricchi per garantire maggiore equità sociale e sanità per tutti, è l'annuncio del presidente americano Obama, che ieri ha presentato le linee guida del suo primo bilancio. Obama ha detto di voler inaugurare una nuova era di responsabilità fiscale. Il deficit americano nel 2009 si dovrebbe attestare a 1.750 miliardi di dollari, il più alto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia ha raggiunto quota 60 milioni di residenti, un traguardo storico inseguito dal 1959, quando in Italia eravamo 50 milioni. La quota 60 milioni è stata raggiunta grazie anche ai 4 milioni di residenti stranieri, vale a dire il 6,5% della popolazione. Infine il calcio, passa solo l'Udinese tra le quattro italiane impegnate in Coppa UEFA, fuori il Milan che dopo l'1-1 dell'andata fa 2-2 a San Siro col Werder Bremen. La Fiorentina non va oltre l'1-1 ad Amsterdam con l'Ajax ed è fuori, come la Sampdoria sconfitta anche al ritorno 2-0 in Ucraina col Metalist. L'Udinese, come detto, rimane in corsa, ha battuto 2-1 i polacchi del Lech Poznan e negli ottavi se la vedrà con lo Zenit San Pietroburgo. Ed è il momento, come di consueto, del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al tema dello sciopero e dei trasporti. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Una diversa regolamentazione dello sciopero sarà probabilmente esaminata questa mattina dal Consiglio dei Ministri. La novità principale riguarda il cosiddetto sciopero virtuale, cioè la possibilità di destinare insieme a un contributo, o meglio una penale aziendale, la retribuzione persa a fini sociali. Renderlo obbligatorio apparirebbe forse una forzatura, ma lo sciopero virtuale è una novità positiva che va perseguita, in particolare nei servizi pubblici, dove il servizio sarebbe garantito anche in presenza di una protesta legittima. C'è poi il limite del 50% di rappresentatività delle sigle sindacali per poter proclamare un'agitazione e il ricorso al referendum se non si raggiunge questa soglia. Qualche dubbio pone la comunicazione anticipata dell'adesione individuale, ma nel complesso il provvedimento appare diretto a tutelare di più gli utenti dei servizi pubblici senza comprimere un diritto che la Costituzione tutela. Speriamo vinca il buonsenso, che qualche volta manca, piuttosto che un confronto fra governo e sindacati condizionato troppo da scorie ideologiche e vecchie divisioni. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, che ritroveremo ovviamente lunedì alla stessa ora. E noi rimaniamo proprio su questo tema, a parlare sugli scioperi nel settore dei trasporti, visto che oggi ne discute il Consiglio dei Ministri. E lo facciamo con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Buongiorno Bonanni. Senta Bonanni, le chiedo, una nuova regolamentazione nel settore dei trasporti secondo lei è necessaria? Sì, è necessaria, avevamo già ravvisato questa esigenza già diversi mesi fa e non solo come CISL ma anche come CGL, CISL, UIL, tant'è vero che il documento unitario che varammo sulla vicenda contrattuale tra di noi conteneva anche un riferimento all'esigenza di regolare anche servizi molto delicati, quali sono i trasporti. E il governo ultimamente voleva regolare tutto, anche il pubblico, ma noi siamo stati contrari perché lì è già regolato e funziona anche da 12 anni. E il trasporto invece che non ha regole, che spesse volte compromette la libertà della maggioranza dei lavoratori, perché senza che ci sia una regola sulla rappresentanza e rappresentatività e senza che ci siano dei criteri per gestirla, alla fine quello che è successo finora, se si vuole essere obiettivi e se si vuole salvaguardare la piena legittimità dell'esercizio di sciopero e anche il rapporto proficuo con i cittadini, gli utenti, ricordo a tutti che la stessa Costituzione ricorda che il diritto alla mobilità, alla libera mobilità, è un fatto davvero importante per un paese evoluto come il nostro. Sì. Quindi credo che sia importante appunto regolarlo, facendo conto soprattutto sulle parti che devono trovare dei criteri convenienti per regolare appunto un esercizio molto delicato, importante, perché va salvaguardato, ma salvaguardarlo non significa mantenere la situazione come è stato finora lo stato brado. Regolarlo significa dare garanzie ai lavoratori e anche agli utenti. Senta Bonanni, lei ha detto che è stata firmata una preintesa in accordo con i sindacati. Ora, come peraltro non è solo nel caso, in questo caso la CGIL sembra un po' smarcarsi. Tra l'altro Epifani oggi in un'intervista a Repubblica dice spero che la CISL abbia la mia stessa posizione. Prima l'intesa tra i sindacati, poi la legge. Lei come vede questo smarcamento della CGIL? Certo che prima l'intesa, peraltro il governo, da quello che mi risulta, vedremo oggi che farà nel Consiglio dei Ministri, presenta un disegno di legge delega, e il disegno di legge delega si sa che dal tempo, circa un anno e mezzo di tempo, prima di convertirsi e prima di diventare legge, e quindi da tempo alle parti sociali di trovare gli aggiustamenti, di trovare le soluzioni che loro possono trovare meglio del legislatore. E quindi Epifani ha ragione alla sola condizione che non sia questo un espediente, come gli succede spesso, di buttare sabbia negli ingranaggi. E invece, proprio per la nostra responsabilità e per l'esercizio pieno del diritto di sciopero, che deve risultare inviolabile, noi dobbiamo saper responsabilmente regolare noi e gli imprenditori la partita, in modo tale che poi il legislatore possa utilizzare gli accordi fatti e trasformare in legge. Però tutti questi alto là e così via mi paiono il modo per creare allarmismo e non dare la giusta dimensione ai problemi che si hanno di fronte, che non sono un peso per noi, anzi sono un modo per toglierci dei pesi, perché ci sono stati appunto degli abusi a discapito dei lavoratori, perché piccolissime minoranze corporative hanno sequestrato spesse volte la volontà generale dei lavoratori, oltre a mettere a repentaglio il servizio delicatissimo, quello che è del trasporto, della mobilità appunto pubblica. Si vuole inserire la soglia del 50%, cioè chi può proclamare lo sciopero, chi rappresenta almeno il 50% dei lavoratori. Qualcuno dice una soglia va bene, bisogna limitare le sigle piccoline, ma non è una soglia un po' troppo alta questa? No, non bisogna limitare nessuno, non è un modo per rendere, per alzare l'asticella e non poterla varcare mai, per lo sciopero, al contrario. È un modo, da una parte, per spingere tutti i sindacati verso una sola situazione e quindi promuovere coalizioni, e dall'altra parte però anche stabilire un criterio, quello più naturale e quello più equilibrato, quello democratico, che la maggioranza è rappresentata almeno dalla metà più uno, non è la maggioranza rappresentata da una minoranza, perché può accadere, nella tutela del diritto di uno, che mentre si tutela il diritto di una persona possono venir meno i diritti di altri 10. Quindi ci deve essere un criterio. A me fa specie sentire alcune affermazioni che non hanno nulla a che fare, per esempio, col buon senso, oltre che con le regole più elementari della convivenza. Senta Bonanni, l'altro allarme di Epifani è che non sia questo un cavallo di Troia per estendere le regole anche al settore privato. Su questo siete d'accordo? Cioè ci vuole questa regolamentazione solo nel settore trasporti e non oltre? Epifani avrebbe bene a sedersi e a dare il suo contributo, anziché minacciare la presenza di lupi a forza di elencare tutti i lupi. A quel punto non si avrà più contezza della situazione, allorquando, speriamo di no, qualche lupo si faccia vedere, partecipasse alla discussione come si conviene a un sindacato importante, rappresentativo, che ha dei diritti ma anche dei doveri. Però anche lei lo vuole limitato ai trasporti, oppure? Certo, certamente. Assolutamente. Ma non metto a paventare rischi, pericoli e così via, perché non ho problemi nel dire che la mia organizzazione ravvisa da diverso tempo l'esigenza, in questo settore particolare, di garantirsi delle regole. Quindi è il modo di rapportarsi, è il modo di approcciare il problema. Bonanni, ancora un paio di domande. Le chiedo, ha visto che Obama ha detto bisogna tassare di più i ricchi per una migliore equità sociale, per garantire una sanità per tutti? Beh, in America c'è il problema anche relativo specifico alla sanità, ma il concetto, soprattutto vista la crisi attuale, tassare di più i ricchi? No, a me basta che si ripristini interamente in Italia il concetto, il principio di progressività, che è stato fortemente lacerato nel corso degli anni, e cioè quel concetto, quel principio secondo cui ognuno dovrà pagare in ragione di quello che ha. E Obama parla in questo modo sapendo che il suo sistema fiscale è un sistema fiscale molto rigoroso e equo per tutti. In Italia non c'è un sistema né rigoroso né equo, perché finché ci saranno lavoratori e pensionati che dovranno pagare in ragione di quello che hanno e hanno la ritorno alla fonte, e molti altri invece, non avendo avuto la ritorno alla fonte, possono pagare spesse volte in ragione di quello che dicono, il sistema italiano non è equo. E questo è un punto davvero delicato, anzi invito io tutto il movimento sindacale a un impegno forte per questo. Hanno deciso di arrivare al federalismo fiscale in Parlamento. Io non ho nulla in particolare contro il federalismo fiscale, però bisogna precisare due o tre questioni. E ecco perché è importante che tutto il sindacato si muova su questo. Il ripristino della progressività dentro il federalismo fiscale, il chiarimento, per esempio, di che garanzie diamo a chi ha la ritorno alla fonte, ma anche di che garanzie devono dare coloro che non hanno la ritorno alla fonte, di coloro però, per esempio, che dichiarano loro quanto guadagnano. Beh, noi vorremmo vedere i loro patrimoni, quanto spendono nell'anno e quanto hanno guadagnato realmente nell'anno. Per fare questo ci vuole la tracciabilità e ci vuole un collegamento tra tracciabilità delle spese che fanno, il patrimonio che hanno e quello che hanno denunciato nell'anno, in modo tale che il fisco possa colpire coloro che truffano la collettività. Va bene, io Bonanni la ringrazio per essere stato con noi. Mi devo fermare, devo dare gli aggiornamenti al traffico. Ovviamente vedremo quest'oggi cosa deciderà il governo in materia. Grazie per essere stato con noi, Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Le 8:47 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Voi sapete quanto siamo sensibili alla questione costi della politica e quanto io appoggio a priori chi voglia insomma abbatterli. Saluto l'onorevole Mario Valducci, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro presidente della Commissione Trasporti della Camera, ma soprattutto credo si sia mosso come responsabile degli enti locali di Forza Italia in questa iniziativa. Una proposta di legge per togliere 1783, le ho letto su Libero, credo, strutture pressoché sconosciute e inutili. Vabbè, le comunità montane sono abbastanza conosciute, i bacini imbriferi, i consorzi di bonifica, enti parco, circoscrizioni nei municipi, autorità d'ambito territoriale, insomma. Ecco, Valducci, ci provate, ci riprovate, si può dire. Sì, più che altro vede il dibattito in questi ultimi mesi si è molto concentrato province sì, province no. Ricordo che però per poter sopprimere l'istituzione provincia bisogna modificare la Costituzione. È vero. E quindi bisogna rinviare a quando si parlerà della grande riforma costituzionale. Allora il mio e quello di molti colleghi del Popolo di Libertà sentimento è quello di dire: incominciamo a eliminare tutti questi enti che sono diventati nel 99% dei casi dei poltronifici e finalmente diamo questi compiti che oggi vengono svolti dagli enti parco, dai bacini imbrifici, dagli ambiti territoriali ottimali a comuni, regioni principalmente e anche alle province. Poi quando si tratterà della riforma costituzionale, noi nel 98 già siamo stati come Forza Italia quelli che hanno votato in aula, gli unici a votare per la soppressione delle province, quindi questo non è un problema, però incominciamo a eliminare questo. Quando parliamo di eliminare i consiglieri di zona in tutte le città tranne nelle aree metropolitane, questa è importante perché a giugno noi andremo a votare in oltre 4.000 comuni, allora la possibilità di togliere tutti i consiglieri di zona, che peraltro veramente sono inutilizzati da tutti i comuni dove esistono le zone, che ricordo oggi in Italia sono quelli superiori a 30.000 abitanti, ricordo anche che il governo Prodi ha eliminato quelli da 30 a 100.000, ma rimangono tutti quelli da 100.000 in su, che sono ancora tantissimi. Sì, tanto ci sono molti dati pagati che fanno solo un lavoro di consulenza. Infatti voi avete allegato, credo, anche tutta una serie di dati città per città, no? Di quanti consiglieri di circoscrizione ci sono. È vero che magari prendono un gettone di presenza, in alcuni casi prendono di più, però lei dice sono più che, mi piace la parola, inutilizzati più che inutili, magari potrebbero essere anche utili, però sono, non possono fare niente praticamente, insomma, vede, anche nelle aree metropolitane noi abbiamo previsto di lasciarli, ma anche qui così come sono oggi non vengono utilizzati. Nelle aree metropolitane è importante avere una zona, un municipio, un quartiere con i consiglieri che però devono svolgere un'attività di gestione. Intendo dire, in una città come Roma, dove questi municipi rappresentano 180.000 cittadini e dove quindi rappresentano una grande città italiana, perché ricordo che il panorama delle città italiane sono 8.100 città, di cui 7.500 sotto i 15.000 abitanti, solo 620 26 sopra i 15.000 abitanti, quindi avrebbero un lavoro da compiere enorme, ma vengono poco utilizzati. A questo proposito, onorevole Valducci, mi lasci dare solo una parola? Noi l'abbiamo chiamato Giuseppe Catalano, buongiorno. Buongiorno. Lei presiede la quinta circoscrizione di Catania, esatto. Del comune di Catania. Del comune di Catania. San Giovanni Galermo. Perfetto. Si dichiari, ci dica quanto prende di gettone di presenza al mese. Come? Quanto prende di gettoni di presenza al mese il presidente di una circoscrizione a Catania? Il presidente non è a gettone, ma è indennità. Ah, perfetto. E quanto prende? Circa 1.000 euro al mese. 1.000 euro al mese. Beh, più che altro io concordo con l'onorevole Valducci sugli sprechi della politica, che sono tantissimi oggi, ma non possiamo paragonare le municipalità a queste spese che ci sono inutili. Oggi noi siamo gli unici come istituzione, come ente locale, a contatto con il cittadino. Il cittadino magari l'onorevole Valducci non lo conosce, mentre il presidente o il consigliere di municipalità lo conosce perché giornalmente li incontra. Ma questo sì, ma infatti il termine inutilizzato più che inutile, forse è giusto. L'ho detto prima, concordo. Questo qua poi dipende purtroppo dalla politica, dalle leggi che magari purtroppo non fanno spesso bene. Certo. Onorevole Valducci, 1.000 euro al mese soprattutto per una persona che magari vorrebbe anche fare, ma per il sistema inutilizzato è troppo, poi moltiplicato, certo non tutti guadagnano come a Catania, bisogna dire. Guardi, Catania è un'area metropolitana e quindi è giusto secondo il nostro parere che esistano le circoscrizioni. Quello che deve essere, e le leggi esistono, è che il sindaco e il consiglio comunale devono attribuire delle deleghe operative alle circoscrizioni, riparazioni di buche, arredo urbano, controllo anche se vogliamo parlare del famoso tema della sicurezza. Sono alcune azioni che dovrebbero essere delegate a chi è più vicino alle famiglie e ai cittadini. Per concludere, onorevole, lei, come detto io di premessa, noi seguiamo con piacere, con favore, con sostegno tutti coloro che si impegnano su questa linea. Devo dire, le faccio tanti auguri perché non è la prima proposta. questa e come dire, precedenti sono come dire, naufragate. C'è la vicenda degli enti inutili, da 50 anni se ne parla e da 50 anni non si riesce, sono inutili ma non si riesce a toglierli, ecco. Guardi, io però qui le dico una cosa che può parere strana ma è anche vera: in questo contesto le province sono alleate, perché chiaramente perché si tolgono gli altri, esatto, perché si tagliano gli altri, esatto. Quindi le province che sono prevalentemente oggi governate dal centro-sinistra dovrebbero supportare questa iniziativa, e questo è il mio augurio, e quindi anche la maggioranza politica di centro-sinistra. Peraltro adesso il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Fabio Melilli, presidente della provincia, sì, è entrato nel cuore del PD, esatto, certo, nella segreteria, certo, del Partito Democratico, con la nuova gestione Franceschini. Quindi io mi aspetto che intervengano anche loro a sottoscrivere questa proposta. Se potessimo guardi, metterei anche il mio voto, ma non sono parlamentare, quindi non se ne farebbe nulla. Onorevole Valducci, seguiremo questa sua iter, questa sua proposta di legge, sperando che vada in porto almeno, non so, un 50%. Ci accontenteremo di questi tagli. Grazie, così come ringrazio Catalano, Giuseppe Catalano a Catania. Ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara sarà ospite, tra altri anche Sacca, la vicenda delle intercettazioni tutte archiviate che hanno coinvolto anche il premier Berlusconi. Di questo si parlerà. Noi ci ritroveremo lunedì mattina.